fantasma tra la gente, fuori dalla realtà, nauseato dal presente, un uomo a metà, il volto scuro di un perdente in questa città che non lo vede, non lo sente. Ma cosa devo fare? Esser come voi? Forse dovrei ricominciare, lo farò prima o poi. Magari dire il falso, come fate voi. Annegherò dentro i miei sogni, ma il mio tempo non l'avrete mai. Un uomo a metà, per loro un delinquente, provano pietà, ma non mi importa niente. Un uomo a metà, ma almeno vivo tra la gente. Mi piace vivere in strada, per me è qualcosa di importante. Ma cosa devo fare? Esser come voi? Forse dovrei ricominciare, lo farò prima o poi. Magari dire il falso, come fate voi. Annegherò dentro i miei sogni, ma il mio tempo non l'avrete mai. Esser come voi, forse dovrei ricominciare, lo farò prima o poi. Magari dire il falso, come fate voi. Annegherò dentro i miei sogni, ma il mio tempo non l'avrete mai.